L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti a rivivere i sette fatti più importanti dell'ultima settimana che si è aperta sabato scorso, 27 settembre, definita ieri 3 ottobre. I servizi, le interviste e i commenti sono andati in onda come sempre nei GR di Radio 24. Sabato. Quella che è appena terminata è stata forse la settimana più tranquilla o comunque meno turbolenta per Alitalia da molto tempo a questa parte. In effetti in questi ultimi giorni si chiude il cerchio della estenuante trattativa tra CAI e sindacati e anche la politica mette un freno alle polemiche incrociate. Cominciamo però il nostro racconto da sette giorni fa, infatti soltanto poche ore prima, nella notte di venerdì 26 settembre, i piloti hanno firmato l'intesa con la nuova compagnia aerea. Ecco allora il quadro della situazione, proprio riferito a sabato scorso nel servizio di Elisabetta Fiorito. Due ancora le incognite su Alitalia. La prima, manca il sì degli assistenti di volo Avia e SDL convocati a Palazzo Chigi per lunedì mattina. Soddisfatti i piloti dell'ANPAC che hanno chiuso l'accordo con un calo degli esuberi e con la qualifica di dirigenti. Una firma precisa il premier Silvio Berlusconi è arrivata alle 4:30 di mattina e Berlusconi dice anche che se non fosse il presidente del Consiglio sarebbe dentro la CAI. Seconda incognita, le alleanze internazionali e la politica. Tra Air France e Lufthansa il leader della Lega Umberto Bossi non ha dubbi, meglio la compagnia tedesca perché lascerebbe l'aeroporto di Malpensa come hub e Lufthansa è anche la preferita tra i sindacati. Botta e risposta poi tra il segretario CGIL Guglielmo Epifani e il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Epifani accusa Alemanno di non aver avuto un ruolo decisivo nella trattativa, mentre il sindaco replica: non prendo lezioni da chi ha sbagliato. In tutto questo il presidente dell'ENAC, ente aviazione civile, Vito Riggio, pronostica difficile far decollare la nuova Alitalia entro il 15 ottobre. Elisabetta Fiorito, l'avete appena risentito, accennava a due incognite ancora in gioco. Quella del partner straniero resterà una questione aperta, direi, ancora per molto tempo. Lunedì invece tocca agli assistenti di volo sedersi ancora una volta al tavolo della trattativa, ma questa volta è l'ultima volta. Riascoltiamo allora il servizio di Vincenzo Miglietta e poi le reazioni di hostess e steward raccolte da Francesca Malaguti. Con la firma di Avia ed SDL si chiude il capitolo dell'intesa tra CAI e sindacati. Un piano, quello di Colaninno e soci, siglato da CGIL, CISL, UIL, UGL e dagli autonomi, che prevede 12.500 assunzioni, 3.250 esuberi, l'intero assorbimento di Air One nella nuova società. Il prossimo passo sarà ora quello dei contratti, ma il futuro della compagnia si giocherà anche nella scelta di un partner straniero come socio di minoranza. La corsa è a due, Air France e Lufthansa, lo ha confermato di fatto il numero uno della CAI Colaninno. Ora si stanno battagliando per essere partner di Alitalia, ha detto Colaninno riferendosi a francesi e tedeschi. Il partner sicuramente è necessario, ma sarà necessario ai tempi opportuni, sarà una decisione che prenderà la CAI, la prenderà sull'analisi delle sinergie industriali e quindi certamente non sull'analisi finanziaria, e sicuramente verrà con il tempo necessario. Non c'è dunque fretta per Colaninno, intervenuto così ai microfoni Rai. La scelta di un partner straniero è centrale e strategica, fanno capire intanto da Banca Intesa, e va fatta per questo senza lancette dell'orologio. Nessun trionfalismo da parte dei due sindacati che per ultimi hanno sottoscritto il piano CAI. Un collega su tre dovrà andare a casa e gli esuberi tra gli assistenti di volo saranno circa 1.500, ricorda Antonio Di Vietri, presidente dell'Avia. Stesso tono per il coordinatore dell'SDL Tomaselli, che ribadisce. È comunque una firma, una sigla tecnica che sarà sottoposta alla verifica dei lavoratori. Ritirare la firma però significherebbe non poter sedere come sindacato ai tavoli tecnici con l'azienda per definire meglio contratti, esuberi e cassa integrazione. Ne sono consapevoli le hostess e gli steward di Alitalia, che rimangono contrari al piano di compagnia aerea italiana. I sindacati hanno fatto una scelta dolorosissima, io credo. Pare che sia soltanto un modo per garantirsi la possibilità di esistere come sindacato all'interno delle decisioni dei nuovi contratti. Chi ha comprato questa compagnia ha comprato questo orto e non fa i conti col contadino, che siamo noi assistenti di volo, che come i piloti stiamo sugli aeroplani. Una volta sbloccato lo stallo con i sindacati, martedì tocca all'ENAC pronunciarsi sulla licenza di Alitalia, ormai in scadenza. Sentiamo Valentina Furlanetto. Alitalia avrà ali e carburante fino a marzo 2009. L'ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile titolare delle licenze, ha rinnovato alla compagnia il permesso di volo fino a primavera, quando dovrà passare la cloche a CAI, la nuova compagnia, che adesso ha davanti a sé 5 mesi per organizzarsi. La cordata di Colaninno, infatti, non è ancora un soggetto aeronautico. Deve acquisire a sua volta le licenze, dimostrando di avere aerei e rotte. E prima di tutto dovrà avere il via libera dell'Europa. A questo proposito, il vicepresidente della Commissione europea Trasporti, Antonio Tajani, ha ribadito che Bruxelles potrà dare luce verde all'operazione solo se ci sarà una inequivocabile discontinuità tra la vecchia e la nuova compagnia. Sul fronte politico, il segretario del PD, Walter Veltroni, attacca il presidente del Consiglio. Da Berlusconi solo balle e insulti, ha detto Veltroni, riferendosi alle dichiarazioni del Premier, che avrebbe detto che Veltroni aveva cambiato linea su Alitalia perché ripreso da D'Alema. L'ultimo atto, almeno per ora, della lunga storia di Alitalia va in scena giovedì. Ryanair va all'attacco della nuova compagnia di bandiera proprio nel giorno in cui è in calendario l'assemblea dei soci CAI. Sentiamo il servizio di Paola Nania. I 16 soci di CAI, compagnia aerea italiana, arrivano a Palazzo Clerici nel centro di Milano a metà mattina. Si riuniscono per 1 ora e mezza, poi la decisione all'unanimità. Sia al ripristino dell'offerta per Alitalia e agli accordi raggiunti con le 9 sigle sindacali. Nessuna novità invece sul partner internazionale, in lizza sempre Air France e Lufthansa. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, membro della cordata, Corrado Passera. Fa parte delle cose che si faranno nelle prossime settimane. Il Senato intanto ha approvato il decreto legge sull'Alitalia che modifica la legge Marzano sulle grandi aziende in crisi, mentre Ryanair ha presentato un esposto alla Commissione europea proprio contro il piano di salvataggio della compagnia, considerato un aiuto di Stato non legittimo. A proposito del partner internazionale che si alleerà prima o poi con la nuova Alitalia, aggiungo soltanto che l'amministratore delegato di Banca Intesa Passera, giovedì durante proprio l'assemblea dei soci, non ha escluso neppure British Airways dalla partita. Ieri infine lunga intervista, va segnalata, del commissario straordinario Fantozzi al Corriere della Sera. Ha detto molte cose, oltre a dispensare meriti a Collanino, Letta, Veltroni, D'Alema, Berlusconi, praticamente per tutti. Ha concesso l'onore delle armi ad Epifani e anche al capo dei piloti Berti, ma soprattutto ha ricordato le parole che gli disse a suo tempo Spinetta, numero uno di Air France: non mi infilerei più in questo ginepraio. E ha anche precisato che il difficile per Fantozzi, per lui, arriva proprio adesso, che dovrà essere fissato il prezzo di acquisto della compagnia. Nella seconda parte dell'ottavo giorno, tanto sport e la conclusione del rapimento di turisti italiani in Egitto. A tra poco. L'ottavo giorno. Domenica. Per gli appassionati di sport, di tutti gli sport, è una di quelle giornate da passare incollati davanti alla televisione, dalla mattina, anzi dall'alba, a sera tardi. Il programma infatti prevede in ordine sparso Formula 1, Moto Mondiale, la Serie A con il derby di Milano nel posticipo e il Mondiale di ciclismo, che tra l'altro la squadra azzurra gioca in casa. La prima scena di questo film straordinario viene dal Giappone ed è protagonista Valentino Rossi. Risentiamo il servizio di Dario Ricci. Prima, nel 2006, il Mondiale era scivolato via insieme alla sua Yamaha in una maledetta curva a Valencia a favore di Nicky Hayden, giovanotto del Kentucky. Poi, lo scorso anno, era stato il canguro australiano della Ducati Casey Stoner a spazzare via il sogno di rivincita. Alla fine, ciliegina su una torta amara come il fiele, i guai col fisco e il pagamento della maxi multa di 35 milioni di euro. Per questo fa sensazione oggi rivedere Valentino Rossi lassù, sul tetto del mondo per l'ottava volta. I motivi della rinascita? La grinta ritrovata, la crescita della Yamaha, l'ostinazione nel volere le gomme Bridgestone, la rottura col vecchio manager dopo il fattaccio col fisco e una maniacale preparazione fisica che non è mai stata il pezzo forte del pesarese. E allora non chiamatelo miracolo, un nome ce l'ha, è Valentino Rossi. A chiudere questa epica giornata di sport c'è il calcio con il derby di Milano tra Milan ed Inter. Tanti gli spunti in partenza e un risultato finale che fa gioire i rossoneri, male invece l'Inter di Mourinho. Il commento è di Carlo Genta. Tra i due Igno che debuttavano nel derby di Milano, ride quello che forse meno ti aspetti. È Ronaldinho che sceglie il palcoscenico più bello di questo inizio stagione per segnare il suo primo gol italiano. Gran colpo di treccine su un pallone magnifico di Kakà. Dunque il Milan di misura ma con merito, che ne dica poi Mourinho, che ha presentato un Inter in versione portoghese, marce basse, nessun tiro in porta e nel finale anche nervi a fior di pelle e cartellini a grappoli. Per il resto, la domenica pomeriggio è stata da pennichella, quasi quanto l'orribile Gran Premio di Singapore. Fatale quando spalmi 4 delle 5 presunte grandi tra il sabato e il posticipo. Allora non puoi che guardare con curiosità la classe media salire in un provvisorio paradiso, in un gioco stucchevole di classifiche virtuali. Detto questo, la Lazio gioca un gran calcio, ora come ora. Il migliore che c'è in giro, come quasi normale, quando hai due signori attaccanti come Pandev e il genietto Zarate. 10 gol in coppia in 5 gare. Il Napoli alla condizione sposa la fortuna, il Catania dei Peones vola e alle porte del paradiso porta addirittura la classe operaia. Ma il grande calcio è un'altra cosa. In mezzo all'impresa di Rossi e alle emozioni del derby milanese giungono altre gioie e altri dolori per i colori italiani, dalla Formula 1 e dal ciclismo. Le ha messe insieme il servizio di Dario Ricci. Vanno all'Italia delle due ruote gli applausi della domenica. I rimpianti invece sono tutti per la nazionale che di ruote ne ha 4, cioè la Ferrari, che si perde nella notte di Singapore. Quasi ti rovesci il caffè addosso di prima mattina per applaudire l'immenso Valentino Rossi, che in Giappone conquista vittoria e 8ª meraviglia mondiale. E quasi perdi la voce per urlare e spingere sul saliscendi del circuito di Varese Alessandro Ballana la conquista della maglia iridata del ciclismo, davanti all'altro azzurro Cunego. Massa prima domina, poi ai box per un rifornimento, riparte trascinandosi dietro il bocchettone della benzina. Risultato, un meccanico investito e preziosi punti mondiali che vanno in fumo. E Raikkonen, nel giorno in cui vince quell'Alonso che molti vorrebbero sulla rossa e Hamilton vola verso il titolo, si stampa su un muretto a un pugno di giri dalla fine. Che dire? Peccato non poter regalare alla rossa, almeno per una domenica, le due ruote e il cuore di Valentino e Alessandro. E così, dopo il terzo posto finale a Singapore, Hamilton ha 7 punti di vantaggio su Massa nel mondiale, quando mancano 3 gare alla fine. Dopo invece l'esultanza per Ballan domenica nel mondiale di ciclismo, il ciclismo proprio ripiomba nel suo incubo peggiore lunedì, quello del doping, perché la procura antidoping del CONI formalizza l'accusa nei confronti di Riccardo Ricò, il ciclista italiano trovato positivo all'ultimo Tour de France. Sentiamo l'intervento di Pier Augusto Stagi in diretta nel GR Extra Large di lunedì. Si attendeva appunto il responso da parte dell'ufficio della procura antidoping del CONI, che ha disposto proprio questa mattina di deferire l'atleta e chiedere per lui 20 mesi, una pena che hanno tenuto conto della sua confessione. Il corridore, che ricordiamo fu trovato positivo in due occasioni al Tour de France, l'8 e il 13 luglio, a un nuovo tipo di eritropoietina la sera, ha collaborato con le istituzioni, ha fatto nome, ha fornito indicazioni e quindi hanno tenuto buona questa sua posizione. Adesso dovrà essere giudicato giovedì alle ore 11 a Roma in udienza di fronte al Tribunale Nazionale dell'Antidoping, che deciderà quanto infliggere al corridore modenese. Giovedì, come anticipato anche da Stagi, arriva la sentenza del Tribunale Antidoping del CONI, che infligge al ciclista di Sassuolo addirittura 2 anni di squalifica, squalifica di 4 mesi più pesante di quella che era stata richiesta dalla procura. Lasciamo dunque Ricò ai suoi tormenti e a un probabile ricorso al TAS e torniamo a parlare di calcio. Infatti a metà settimana ci sono le partite di Coppa, martedì arrivano 2 pareggi per Fiorentina e Juventus in Champions League, mercoledì scendono in campo Roma e Inter. I loro risultati ce li racconta questo servizio di Dario Ricci. La Roma che fa l'impresa in terra di Francia, l'Inter che esce da San Siro solo con un pareggio e tanti interrogativi. Il mercoledì di Champions è dolce amaro per le italiane. A Bordeaux la Roma ritrova se stessa e travolge per 3-1 i transalpini. Gourcuff porta in vantaggio i girondini, ma l'espulsione di Enrique cambia il match. Il resto lo fanno i gol di Vucinic e Baptista, doppietta, che firmano la resurrezione giallorossa nella ripresa. 1-1 invece tra Inter e Werder Brema. Nerazzurri subito avanti con Maicon, poi Zanetti e Soci controllano la gara, ma al 62esimo Julio Cesar e Cordoba si addormentano su un innocuo traversone e Pizarro insacca il pari per il Werder. Nel finale palo di Maicon, ma Naldo e ancora Pizarro sfiorano il colpaccio. Per Mourinho, insomma, sono ancora lavori in corso. Lunedì. Sarebbero stati liberati tutti gli ostaggi rapiti in Egitto il 19 settembre scorso, ricordiamo. 19 ostaggi, tra i quali 5 italiani. Non ci sono altre conferme dalle agenzie, la notizia è stata data appunto da Sky, che cita la televisione egiziana.

Domini e con il suo gruppo, molto nel settore dei servizi, quindi negozi, quindi attività di ristorazione, quindi bar. È possibile quantificare il giro d'affari del clan? Attualmente si può quantificare certamente in decine di milioni di euro, approssimato per difetto, proprio perché è stato un flusso di denaro che è stato reinvestito nel tempo, sia sul territorio con aziende di bufale e altre attività, che fuori. La particolarità di questo clan dei Casalesi è soprattutto questa provincializzazione che li ha portati a investire fuori regione, fuori provincia. Hanno cominciato prima con il Lazio, con la vicina provincia di Latina, poi si sono estesi nel Sud America, nell'Europa dell'Est e nella Spagna e nel Portogallo. Attualmente una delle nuove frontiere, e sono stati arrestati anche degli esponenti di spicco lì, è l'Europa dell'Est, che è un mercato tutto da scoprire e su cui si sono riversati molti dei soldi sporchi guadagnati soprattutto con le estorsioni. In settimana si torna a parlare di nuovo di rifiuti. La miccia riesplode sabato scorso a Chiaiano, si registrano scontri, blocchi stradali, cassonetti in fiamme. Da una parte della barricata le forze dell'ordine, dall'altra la popolazione che si oppone all'apertura, che dovrebbe essere ormai a breve, della discarica, aiutati persino da No Global venuti da altre regioni. La situazione rimane tesa a lungo. Questa è la cronaca di Laura Viggiano di lunedì mattina. Le cariche di sabato sera non bastano per fermare i cittadini che portano avanti una protesta legittima. Così si è conclusa ieri sera l'assemblea dei manifestanti contro la discarica di Chiaiano all'indomani degli scontri con le forze dell'ordine. E non si fa attendere il commento del sottosegretario Bertolaso, che considera i manifestanti gli stessi che per un anno hanno impedito di risolvere la vergognosa situazione di Napoli, persone che non hanno più argomenti se non quello del casco e dello scudo di plexiglass. La tensione dunque permane e si continua a chiedere l'autorizzazione per una delegazione di cittadini ad entrare nella cava che ora è in fase di bonifica prima dell'allestimento della discarica. Ma Bertolaso ribadisce che il tempo delle chiacchiere è finito. Al presidio di Chiaiano ieri sera si è deciso che si proseguirà nei prossimi giorni con iniziative anche estemporanee. Facile immaginare che qualcosa accada mercoledì, giorno in cui il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dovrebbe tornare in città. Mercoledì, come promesso, Berlusconi è a Napoli e su Chiaiano parla chiaro e dice che la discarica sarà pronta a novembre. Anche Vassolino ripete più o meno le stesse cose e dice che è giusto andare avanti con la discarica. Ieri invece nuova notizia che deve preoccupare, perché si registrano rifiuti in fiamme a Ponticelli, periferia est di Napoli, altra zona caldissima fino a qualche mese fa. Ma di fronte a queste premesse dobbiamo veramente aspettarci forse un riacutizzarsi della crisi. E nel nostro ping pong di fatti e notizie dalla Campania torniamo a parlare di Camorra, che giovedì colpisce ancora. Il corrispondente Enzo Danna. Un omicidio di Camorra con ogni probabilità riconducibile alla guerra dei Casalesi. Lorenzo Riccio, 37 anni, è stato assassinato a colpi di Kalashnikov e pistola da due uomini che sono entrati a volto scoperto in una ditta di pompe funebri a Giugliano. Riccio, incensurato, lavorava come ragioniere nell'azienda. Il titolare dell'impresa, vittima del racket negli anni 90, aveva testimoniato ad un processo contro il potente clan dei Casalesi, allora sotto il completo controllo del superboss Francesco Schiavone. Gli inquirenti non escludono che questa mattina i sicari abbiano fatto fuoco contro la persona sbagliata, ma la camorra è entrata in azione nelle ultime ore anche nel Vesuviano. Ieri sera ad Ercolano è stato ucciso Salvatore Scognamiglio, 53 anni, ritenuto legato al clan Birra. D'oggi intanto arrivano nelle strade del Casertano altri 500 militari inviati dal Ministero dell'Interno di comune accordo con quello della Difesa. Tuttavia tra i ministri Maroni e La Russa non mancano divergenze proprio su questo tema. Ce lo ricorda il servizio di Elisabetta Fiorito, andato in onda mercoledì. Lo scontro va avanti da giorni e continua davanti agli schermi televisivi. Il ministro degli interni Roberto Maroni torna sull'invio dei militari in Campania e torna a polemizzare con il titolare della difesa Ignazio La Russa. A Matrix Maroni insiste che quella con la camorra è una guerra civile e non una guerra tra bande come l'ha definita La Russa. Non siamo in presenza di una lotta tra bande per avere il predominio, ma di un sistema articolato che garantisce reddito e si propone di essere Stato nello Stato. Altro capitolo è l'invio dei militari in Campania, non è terreno della difesa, precisa Maroni, l'ordine pubblico e la lotta alla criminalità sono terreni del ministro degli interni, l'invio dei militari sarà coordinato dalle prefetture. Prospettiva diversa quella di La Russa, oggi in visita a Caserta ai paracadutisti della Folgore, l'Italia non ha bisogno di militarizzazione, dice La Russa, il lavoro che svolgerà l'esercito potrebbe essere svolto da carabinieri e polizia. Mercoledì. Dobbiamo riflettere e agire perché la tendenza al rigetto dello straniero non diventi valanga. Così ha parlato al Corriere della Sera Monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti. Sono parole pesanti, gravi le sue, che si inseriscono peraltro in un contesto che sta diventando sempre più preoccupante nel nostro paese. Qualche settimana fa ricorderete la morte di un giovane italiano, peraltro di colore, aggredito da padre e figlio proprietari di un bar dopo un piccolo furto. Ieri invece una donna somala ha detto di essere stata tenuta 4 ore nuda in una stanza dell'aeroporto di Ciampino. Poi sempre a Roma sono apparse nel quartiere Prenestino scritte contro Anna Frank. Insomma, ci dobbiamo chiedere se sta davvero montando un vento razzista in Italia, soprattutto di fronte ai due fatti poi più eclatanti di questa settimana. Il primo ci porta a Parma. Paolo Panceri. Arriverà al Parlamento europeo la vicenda di Emmanuel Bonsu Foster, di 22 anni, originario del Ghana. Il giovane accusa il comando dei vigili urbani di Parma di averlo prelevato con la forza, ammanettato, picchiato, sbattuto in cella e insultato. Sulla vicenda Giusto Catania, vicepresidente della Commissione Libertà Pubblica dell'Europarlamento, ha rivolto infatti un'interrogazione alla Commissione. Il ragazzo ha raccontato di essere stato fermato all'uscita di una scuola di Parma nel corso di un controllo antispaccio, braccato dagli agenti e infine pestato nell'auto di servizio e nella sede del comando. Sentiamo la sua testimonianza raccolta da Repubblica.it. Ho preso paura, ho cominciato a scappare, sono venuti a tenermi, poi mettendomi per terra, puntandomi la pistola alla faccia. Alla loro base mi hanno cominciato a picchiare, eccetera. Volevo chiamare mio padre, eccetera, però anche lì mi hanno picchiato, obbligato a filmare delle cose. I vigili urbani di Parma invece smentiscono tutta la vicenda. Sentiamo la comandante Emma Monguidi ai nostri microfoni. Sì, noi smentiamo su tutti i fronti che al ragazzo siano state comunque inflitte violenze, che siano stati inflitti insulti e che non sia stato trattato secondo quella che è il rispetto delle persone e la dignità della persona. Sulla vicenda il comune ha aperto un'indagine interna. La seconda scena inquietante ci riconduce a Roma, nella periferia di Tor Bella Monaca. Giovedì sera un cinese di 36 anni viene insultato e aggredito alla fermata dell'autobus da una banda di 6 minorenni, tutti arrestati. Tutto questo a poche ore di distanza, tra l'altro, da una nuova aggressione a Milano contro un ambulante senegalese picchiato con una mazza da baseball. Il giorno dopo l'aggressione di Tor Bella Monaca, i familiari di uno degli aggressori chiedono di incontrare il sindaco Alemanno. Da Roma è il servizio di Francesca Malaguti. Il giorno dopo l'aggressione, le lacrime. I genitori e il fratello di uno dei sedicenni che hanno aggredito il cinese a Tor Bella Monaca hanno chiesto di essere ricevuti dal sindaco Alemanno, che racconta così l'incontro. Erano tutti in lacrime, hanno tutti chiesto scusa. Io gli ho detto con chiarezza che le scuse non bastano. È importante che loro erano qui a chiedere scusa alla città. I familiari dell'aggressore chiedono di incontrare il cinese in ospedale per scusarsi personalmente. A soccorrere per primo la vittima è il consigliere del municipio di Tor Bella Monaca, Fernando Vendetti. Ho sentito una frase pesante, cinese e poi la parolaccia. Il più alto dei ragazzi si è posto a gambe divaricate, cioè a gambe aperte davanti a lui, e gli ha sferrato violentemente un pugno. A quel punto ho visto il cittadino cinese barcollare. Gli altri che stavano per sopraffarlo ho strillato e allora loro sono scappati. Tra poco l'ultima parte dell'ottavo giorno al centro della scena, gli Stati Uniti. L'ottavo giorno. Giovedì. Siamo ancora nel bel mezzo di un'altra settimana convulsa, sofferta, se volete, isterica dell'economia americana. Si apre con la fragorosa bocciatura del Congresso al piano di salvataggio da 700 miliardi voluto da Bush e dal segretario al tesoro Paulson. 228 no contro 205 sì, con i liberisti più intransigenti che addirittura urlano no a misure comuniste. Faticosamente poi la frattura si ricompone, ma giovedì la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale lanciano il più implacabile degli allarmi. Sentiamo Valeria De Rosa. Gli Stati Uniti sembrano muoversi, il Senato ha approvato il piano, ma il Fondo Monetario non tira il fiato, perché si tratta dello shock finanziario più forte dagli anni 30 a questa parte. La politica deve agire, scrive l'FMI. Dall'altra parte dell'oceano la BCE decide di non toccare i tassi, ma per la prima volta dallo scoppio della crisi del credito legata ai subprime, Francoforte ammette che i rischi per la crescita sono altissimi. La svolta, dunque, sembra vicina. Probabilmente già a novembre il costo del denaro sarà tagliato. L'Europa cercherà una linea comune sabato, quando Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia si riuniranno a Parigi, ma si tratterà solo di un coordinamento, perché Londra ha già fatto sapere che sceglierà da sola come risolvere le proprie grane che tutti nel vecchio continente hanno, chi più chi meno. In Italia però i rischi restano contenuti, assicura il ministro dell'economia. Tremonti afferma di fronte alla Camera che le banche hanno una liquidità adeguata, rassicurazioni che non convincono l'opposizione. L'atteggiamento del ministro è stato sconcertante, commenta Bersani, per non aver fornito alcun dato sull'esposizione del Tesoro e degli istituti di credito. Giovedì dunque arriva il primo sì del Senato americano al piano di salvataggio di Bush e Paulson. Ieri toccava al Congresso, dove nei giorni precedenti si era consumata la battaglia più aspra. Il pacchetto di salvataggio da 700 miliardi di dollari per stabilizzare la crisi finanziaria americana è finalmente passato. La Camera ha votato con una maggioranza schiacciante, 263 voti contro 171, oltre 58 voti in più rispetto al voto di lunedì, che invece aveva bocciato lo stesso pacchetto e prodotto una caduta catastrofica a Wall Street. Si chiude così una settimana devastante per la politica americana e per la finanza americana, una settimana caratterizzata da alti e bassi, da nuove difficoltà per le banche e da una sfiducia generalizzata degli investitori. Ma ora si volta pagina. Interessante vedere come durante tutta la giornata di ieri l'indice Dow Jones è stato al rialzo, scontando l'approvazione di questo pacchetto che avrebbe voltato appunto pagina in questa crisi, un rialzo fino a 300 punti, poi una volta giunta la notizia positiva, immediatamente l'inversione di tendenza e una chiusura con meno 153 punti. Cosa è successo? Come sempre il mercato guarda oltre, ha venduto, ha realizzato profitti sulla notizia e si preoccupa ora di varie cose. Ad esempio, sarà un progetto realizzabile? In quanto tempo i 700 miliardi saranno disponibili? E soprattutto, che impatto ci sarà sulla recessione americana? Un dato ieri sulla disoccupazione preoccupante, altri 150.000 disoccupati in settembre, ha infatti confermato che già per il quarto trimestre entreremo in recessione. Dunque si è chiuso un capitolo, si è tolto una preoccupazione, ma se ne è aperto un altro denso di nuove sfide. Parallelamente alla crisi, negli Stati Uniti corre la campagna elettorale verso la Casa Bianca. Oggi siamo a un mese esatto dal voto del 4 novembre. Gli ultimi sondaggi continuano a dare Obama in vantaggio su McCain, non solo a livello nazionale ma anche in alcuni stati cruciali, quegli stati incerti che in gergo si chiamano swing, come Ohio e Florida. Ma giovedì la ribalta è tutta per i vice dei due ticket, Joe Biden e Sarah Palin. Il servizio di Valentina Furlanetto. Il Gaffer e il Pitbull con Rossetto hanno incrociato finalmente i guantoni. 90 minuti di diretta televisiva fra Joe Biden, democratico, esperto di politica estera, famoso per le sue gaffe, e la rivale Sarah Palin, repubblicana dell'Alaska, mamma di 4 figli, da molti considerata inesperta. Un testa a testa vinto dal vice di Obama, secondo le emittenti CNN e CBS, un pareggio secondo altre fonti. Quel che è certo è che entrambi ne sono usciti senza le temute gaffe, ma anche senza aver assestato colpi fatali all'avversario. Hanno incrociato le armi su tutti i temi più scottanti, dalla guerra in Iraq all'energia, dai diritti dei gay alla crisi economica. Anche su questo punto ognuno ha cavalcato il suo stile, quello dell'uomo, anzi della donna, comune per Palin, che legge la paura della crisi negli occhi delle madri che a bordo campo guardano i figli giocare a calcio. Go to a kid soccer game on Saturday and turn to any parent there on the sideline and ask them, how are you feeling about the economy? And I'll bet you're going to hear some fear in that parent's voice. Biden, figlio di operai, critica l'amministrazione Bush, che ha messo, dice, in una situazione drammatica la classe media. The policies of the last 8 years have been the worst economic policies we've ever had. As a consequence, you've seen what's happened on Wall Street. Venerdì. È il giorno dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del progetto di legge sul federalismo. Il servizio da Roma è di Andrea Viali. Arriva dopo un paio di ore di riunione a Palazzo Chigi il via libera al federalismo fiscale. Governo e maggioranza parlano di riforma storica. La parola sul disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri passa ora al Parlamento, che dovrebbe approvarlo entro gennaio. Ci vorranno però almeno un paio d'anni, fa sapere il ministro dell'Economia Tremonti, prima che gli enti locali acquistino in concreto una maggiore autonomia dal punto di vista fiscale. Soddisfatto per il consenso ottenuto dal suo provvedimento il ministro per la semplificazione Calderoli. Il testo che è stato oggi approvato consente di fare il passaggio da un federalismo irresponsabile a un federalismo responsabile. Il federalismo fiscale non penalizzerà il meridione, assicura invece il ministro per gli affari regionali Fitto. Questo è un testo che ha al suo interno elementi di garanzia sul fronte della perequazione, che in modo molto chiaro evidenziano un livello di solidarietà e di equità che penso sia il miglior modo e il miglior viatico per partire su un percorso complesso ma condiviso. Nel provvedimento sul federalismo fiscale verrà inserito anche l'emendamento su Roma Capitale, approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha dato anche il via libera al decreto che stanzia 1.310.000.000 di euro per riequilibrare i conti degli enti locali. Sono molti, per la verità, i fatti politici di quest'ultima settimana. Per esempio Veltroni attacca duramente Berlusconi dalle pagine del Corriere della Sera, il Premier risponde dicendo che con questo Partito Democratico non si può dialogare. Rimangono poi aperte due questioni delicatissime come l'elezione del Presidente della Commissione di Vigilanza Rai e di un giudice della Consulta, tant'è vero che ieri è intervenuto persino il Presidente della Repubblica. C'è poi il fronte della scuola, sempre aperto, sempre incandescente, ieri c'è stato uno sciopero, mentre la discussione alla Camera è proseguita con il dibattito sugli emendamenti al decreto Gelmini. E c'è soprattutto la questione del rinnovo del modello contrattuale, che vede di fronte Confindustria e sindacati. Il servizio di mercoledì di Vincenzo Miglietta. Una trattativa finita secondo la CGIL, potremmo andare avanti anche senza di loro, replicano gli industriali. È una frattura annunciata quella che si è consumata sul rinnovo del modello contrattuale. Le parti a questo punto torneranno comunque ad incontrarsi il prossimo 10 ottobre. Probabilmente arriverà la firma, oltre degli industriali, delle sole UIL e CISL. Decisamente contrariati i vertici di Viale dell'Astronomia, non accettiamo veti dalla CGIL, ha affermato il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. A questo punto la CGIL vuole di fatto un ritorno alla scala mobile, che è incompatibile con l'Europa, vuole una situazione di non regole nella contrattazione, che per noi è inaccettabile, una sorta di Far West. Dice che noi con questa proposta vogliamo pagare meno i lavoratori, non è affatto vero, è vero esattamente il contrario. Fino all'ultimo ha replicato Epifani, non ci alzeremo dal tavolo, ma per noi la trattativa è finita. Ascoltiamo i perché. È un impianto che non protegge salari, non li fa crescere e soprattutto scarica sui lavoratori l'andamento in una fase come questa di incertezze. Soddisfatti invece CISL e UIL, per Bonanni c'è stato un avanzamento molto forte di incontro proficuo, ha parlato Angeletti. Per un'intesa il governo è la condizione, ha spiegato il ministro del welfare Sacconi, per prorogare la detassazione degli straordinari. L'appello di questa puntata manca soltanto l'ottava notizia. Sabato scompare un mito del cinema americano e mondiale, Paul Newman. Questo è il ricordo di Marta Cagnola. I suoi erano gli occhi più belli di Hollywood, ma sosteneva che l'unica cosa stupida della sua vita fosse quella di aver giocato la carta del sex symbol. Era un attore vero, con solidi studi alla School of Drama di Yale e l'Actor Studio. Nel 1954 il debutto cinematografico con il colossal Il calice d'argento, ma il vero successo arrivò 2 anni dopo con il ruolo di Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. Rocky, hey Rocky. Hey Romolo. Well, what happened to you? I ain't feeling so sharp. It's a temporary condition. You okay, Rocky? Been worried about you. Impossibile elencare tutti i suoi successi. La gatta sul tetto che scotta, Intrigo a Stoccolma, Il sipario strappato, La stangata. Nell'86, diretto da Martin Scorsese, con Il colore dei soldi vinse finalmente un Oscar. Yeah, where was I? The earth moved. Can it move for you a little bit? Oltre al cinema, la sua più grande passione erano le corse automobilistiche, nonostante il parere contrario della sua adorata Joanne, amata per più di 50 anni. Joanne and I have been together for 50 years. On the morning of that race, she handed me my helmet like this and said, "And this is your last race." Questa è l'ultima corsa, gli diceva ogni volta, come aveva raccontato l'anno scorso a Dave Letterman. Perse l'unico figlio maschio, Scott, nel 1978. lascia a 5 figlie la sua grande opera di beneficenza. Negli ultimi 10 anni aveva donato alle cause dei bambini malati oltre 100 milioni di dollari. L'ottavo giorno termina qui. Ricordo la mail a cui potete scriverci: ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Da parte di Emiliano Enrico, l'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.